Nigeria, attacco suicida in un liceo, oltre 40 vittime. Ancora giù la produzione industriale in settembre, meno 0,9% su agosto, quasi un meno 3% su anno. Squinzi, trend è negativo, ma ottobre migliore. L'ipotesi di dimissioni di Napolitano apre il confronto sul nome per il Quirinale. Si cerca un'ipotesi condivisa, Prodi si chiama fuori, mai avuto lo sguardo rivolto al Colle, dice. Dopo i fatti di Bologna, attenzione anche a Imola per l'arrivo del segretario leghista Salvini, che dice: o tutti condannano la violenza oppure mi fermo. Calcio, problemi per il Napoli, Insigne si rompe il crociato e si dovrà fermare a lungo. Salta naturalmente l'appuntamento di domenica con la nazionale, che vedrà in campo Balotelli. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, se volete potete scriverci e commentare a effettogiorno@radio24.it oppure via sms al 349-238-6666. E anche oggi apriamo con la situazione del maltempo che sta investendo la Liguria, una parte della Toscana e una parte del Piemonte. In particolare a Carrara è stata disposta poco fa l'evacuazione dei piani terra, siamo in attesa, cercheremo di collegarci nel corso di questa puntata con il sindaco di Carrara per chiedergli conto di questa decisione e anche delle proteste che lo stanno investendo, come sapete, da giorni, con gente che è arrivata addirittura ad occupare il municipio. Iniziamo però da Genova, dalla situazione di Genova e della Liguria, in diretta con Andrea Ferro. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, la notizia per ora è questa: la perturbazione si sta muovendo molto lentamente, in sostanza ristagna sulla Liguria e l'Alta Toscana, e quindi anziché esaurirsi in serata come previsto ieri, permarrà su queste zone anche la prossima notte e domani, con effetti potenzialmente analoghi a quelli della sera del 9 ottobre, cioè si parla di temporali persistenti, forti e organizzati, quelli che volgarmente chiamiamo bombe d'acqua. Quindi lo stato di allerta 2, il massimo, è stato prorogato di 24 ore e scadrà alla mezzanotte di domani. Riguarda tre quarti della Liguria, tutto il Levante dal confine con la Toscana al Tiguglio, Genova, l'entroterra e parte della provincia di Savona. Anche sul resto della regione lo stato di allerta è stato prorogato di 24 ore, ma a livello 1, cioè più basso. Significa quindi che domani le scuole resteranno chiuse a Genova in tutti i comuni dove già oggi non hanno riaperto dopo il fine settimana. Nel frattempo sul capoluogo non piove, la tregua è iniziata ormai da più di un'ora, ma già dal primo pomeriggio è attesa una cella temporalesca che dal mare dovrebbe avvicinarsi alla costa tra il Tiguglio e i quartieri del Levante, dove fino a 20 minuti fa addirittura il sole si era affacciato tra le nuvole, un quadro che rende pienamente l'incertezza dell'evoluzione meteo in atto. Sul fronte della cronaca, stamane gli scrosci violenti ma brevi hanno innescato allarme alle 10, in particolare nella zona di Sturla, dove il rio Pontetti ha rischiato di esondare. Ieri sera era bastata mezz'ora di pioggia intensissima e a Staglieno e Cornigliano altri due piccoli torrenti erano tracimati con allagamenti di scantinati e negozi. Tutti i corsi d'acqua a partire dal Bisagno sono costantemente monitorati e c'è massima allerta anche per le frane lungo un territorio che in un mese è stato martoriato più volte dalla pioggia. E per il momento da Genova è tutto, Simone, ti restituisco la linea. E grazie ad Andrea Ferro. Inizia oggi, proprio nelle ore nelle quali c'è questa nuova emergenza, il nostro viaggio nelle zone colpite un mese fa. Tutti i giorni un appuntamento nel corso di questa settimana nei giornali radio delle 7 e delle 8 e vi dedicheremo spazio naturalmente anche in Effetto Giorno. Iniziamo dunque questo viaggio. La regione riconoscerà dei finanziamenti per i danni che hanno subito. L'entità io non la conosco perché a questo momento nessuno sa quanti saranno i finanziamenti che verranno dati dallo Stato e dalla Regione. Al momento, fra l'altro, non conosciamo neanche il decreto che dicono che il governo ha varato per quanto riguarda il supporto agli alluvionati della Liguria. Non sappiamo le modalità come vengono erogate né le quantità dei finanziamenti. Il sindaco di Montoggio, Mauro Fantoni, guarda sconsolato la piazzetta devastata dall'alluvione del mese scorso. L'acqua che è arrivata di gran carriera in città, prima aveva fatto danni anche in montagna, e quassù le preoccupazioni oggi sono le stesse che a valle. Come e dove ricostruire, con che soldi pagare, su che aiuti contare, la messa in sicurezza. Per l'ennesima alluvione di Genova, con 250 milioni di danni, finora non è stato nemmeno proclamato lo stato di calamità. Si dice che il governo abbia allo studio misure ancor più speciali dello stato di calamità, ma intanto tra i plurialluvionati di Borgo Incrociati, una rischiosissima parallela del temibile Bisagno, monta la rabbia. Allora, Maremma e a Parma hanno avuto lo stato di calamità una settimana dopo l'alluvione e l'hanno avuta dopo di noi. Dopo un mese non si è visto ancora uno del comune. Cambiare quartiere? Ma il cuore di Genova, allora spostiamo il cuore di Genova, perché questo è il cuore di Genova, è 20 settembre questa. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Genova. Il resto del quadro vede grande preoccupazione, come si diceva, in Toscana, Carrara in particolare, dove è stata disposta l'evacuazione dei piani terra, e a Firenze un fulmine ha colpito un centro per ragazzi autistici e ci sono 3 feriti del personale sanitario. Come si diceva, proveremo a tornare più avanti soprattutto sulla situazione a Carrara. Noi adesso passiamo all'estero. Il Ministero dell'Interno iracheno ha confermato che il cosiddetto e autoproclamato califfo dello Stato Islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, è rimasto ferito in un raid aereo nel quale diversi altri leader dell'ISIS sono rimasti uccisi, lo riferisce l'agenzia irachena Nina. Ci colleghiamo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Secondo te ISIS può fare a meno di al-Baghdadi, ossia è un'organizzazione ormai così strutturata da farne a meno? Ci dobbiamo chiedere se siamo davvero una svolta del conflitto con lo Stato Islamico. 2 sembrano appunto gli interrogativi, mi pare. Il primo, se il califfo Baghdadi ha un successore, e il secondo, chi sta vincendo realmente questa guerra dopo la decisione di Obama di rafforzare la presenza militare americana sul campo. La macchina propagandistica del califfato fa capire che comunque la fine di Baghdadi non sarebbe comunque la fine del califfato stesso, cioè c'è un'organizzazione, una struttura, c'è un gabinetto, ci sono 6 governatori, c'è un ufficio di guerra, insomma la struttura quasi di uno Stato, perché appunto controlla un territorio che è 8 volte quello del Belgio, con una popolazione di 8-10 milioni di persone, insomma. Quindi l'immagine è che, almeno esterna, che la morte l'afferimento grave di Baghdadi non possa fermarli. L'altra questione è chi vince davvero questo conflitto, e su questo l'interrogativo è molto più difficile da rispondere, perché le operazioni sul terreno dipendono molto dalle truppe di un esercito iracheno che deve ancora costituirsi e diventare davvero efficace. Grazie ad Alberto Negri per questa analisi. Noi restiamo all'estero perché sarà 48 studenti uccisi, il bilancio dell'attacco contro una scuola nel nord-est della Nigeria. Questo è quello che riferiscono fonti ospedaliere citate dai media. L'attacco è stato compiuto da un attentatore suicida travestito da studente. I militari accorsi sul posto sono stati presi, tra l'altro, a sassate dai genitori disperati. E c'è un altro attacco che appare come un attacco terroristico e riguarda un soldato israeliano a Tel Aviv che è stato accoltellato in una stazione ferroviaria. Secondo la polizia, l'aggressore del giovane israeliano è un palestinese di Nablus entrato clandestinamente in Israele. L'altro argomento in primo piano in queste ore è quello politico, riguarda la successione al Quirinale e le probabili dimissioni del Presidente della Repubblica. Un punto con Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Conto alla rovescia sulle dimissioni del Presidente della Repubblica, che di fatto Simone condiziona e condizionerà le prossime scelte politiche a partire dalla legge elettorale. Quali convergenze si troveranno e quale sarà soprattutto il destino della legislatura? Tutte domande che si stanno facendo in queste ore le segreterie dei partiti. Ecco perché ogni incontro diventa indicativo a partire dal vertice di maggioranza di questa sera. Quanto al Presidente della Repubblica Napolitano, ieri il Colle ha fissato alcuni paletti. Le dimissioni, una questione nota da tempo, sin dall'inizio del secondo mandato al Quirinale, una posizione chiara e annunciata che non ha mai impedito il pieno esercizio della funzione presidenziale. Su come e quando lasciare l'incarico è in sostanza il ragionamento della Presidenza della Repubblica, deciderà il solo Napolitano, ma la corsa per la successione è comunque aperta e questa volta il Partito Democratico e Forza Italia puntano da subito ad un nome condiviso che scacci il fantasma dei 101 che affossarono Prodi, il quale tra l'altro si tira comunque fuori dalla competizione. L'ampia convergenza necessaria sul Quirinale potrebbe potrebbe condizionare però il braccio di ferro tra Renzi e Berlusconi sulla legge elettorale e sui nodi di queste ore, premio di maggioranza e soglia di sbarramento. Tanti, infine, Simone, gli attestati di stima al Presidente della Repubblica, considero Napolitano un fattore di stabilità, commenta il Presidente di Confindustria Squinzi. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta, e ai giochi che si aprono per l'elezione del prossimo capo dello Stato è dedicata l'inchiesta di oggi di Daniele Biacchessi. Non sappiamo dove porterà questa nuova collaborazione, non chiamiamolo patto, tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Di certo qualche frutto importante lo ha già portato, cioè lo sblocco politico del Parlamento con l'elezione di Silvana Sciarra, del PD, come giudice della Corte Costituzionale, e Alessio Zaccaria, vicino al Movimento 5 Stelle, come membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura. E questa unità di intenti potrebbe rappresentare l'ultima intesa politica prima del voto probabile di primavera 2015. Mettiamo in fila i fatti. Le partite più importanti sono due, l'Italicum e la scelta del successore di Giorgio Napolitano. Di fatto il patto del Nazareno è terminato. Matteo Renzi ha dato un ultimatum a Silvio Berlusconi che arriverà in serata al più tardi domani. I sondaggi danno il PD ancora sopra il 40%, sia che si votasse con il vecchio nuovo sistema elettorale, dalle elezioni politiche Renzi uscirebbe vincente e autosufficiente. In caso di risposta negativa da parte di Berlusconi, Renzi proporrà alla riunione di maggioranza di questa sera che nella nuova legge elettorale ci sia lo sbarramento al 3%, come chiesto dai partiti più piccoli. Ciò potrebbe significare che il PD alle Camere darebbe via libera all'Italicum senza i voti di Forza Italia, ma con un ampio schieramento che comprenderebbe NCD, Fratelli d'Italia e Lega. Con il Movimento 5 Stelle il PD non troverebbe le sinergie per approvare la legge elettorale, ma sulla corsa al Quirinale la collaborazione di fatto è già in atto. Dei nomi che circolano in queste ore, l'unico che al momento trova consensi tra PD, Movimento 5 Stelle e SEL è Stefano Rodotà, l'outsider, colui che al quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato nel 2013 prese 213 voti e venne scelto dalle consultazioni online dai militanti del 5 Stelle. Ancora dati negativi per l'Italia, sono quelli che arrivano dalla produzione industriale. Allarme, crescita zero nel 2015 nel rapporto Global Macro Outlook di Moody's, che prevede per il prossimo anno un'espansione del PIL oscillante fra il meno 0,5 e il più 0,5% nel suo scenario centrale. Stessa prospettiva per l'anno in corso, dopo che Moody's un mese fa aveva indicato un meno 0,3% per il 2014 e un più 0,5% per il 2015. L'agenzia di rating approva le riforme di Italia e Francia, ma avverte che l'impatto sarà graduale. La disoccupazione in aumento nel breve peserà sulla crescita in questi paesi, tra i più deboli dell'Eurozona, che invece, secondo Moody's, vedrà un aumento del PIL dello 0,7%, mentre la crescita globale non accelera. Intanto nel nostro paese scende ancora in tutti i comparti la produzione industriale a settembre. Secondo l'Istat, su base annua, è il dato più basso dal 2013, con un calo del 2,9%, ma ha il segno meno anche rispetto al mese precedente, agosto, con un calo dello 0,9%. Personalmente penso che il dato di ottobre sarà migliore e staremo a vedere, afferma il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, riferendosi all'andamento altalenante. Secondo Banca Italia, infine, è sempre dura ottenere una linea di credito presso le banche italiane, ma la contrazione dei prestiti a famiglie dello 0,6% e le imprese di circa 2 punti percentuali a settembre, seppur di poco, rallenta. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le prove di indipendenza in Catalogna. Nella consultazione di ieri hanno stravinto i sì all'indipendenza con l'80% dei consensi, ma a partecipare sono stati solo un terzo degli aventi diritto. Il voto, come sapete, ha solo valore simbolico. Per Madrid è stato addirittura un esercizio inutile. Sulla consultazione sentiamo un commento di Antonio Villafranca, che è responsabile dell'Osservatorio Europa dell'ISPI, intervistato da Alessandra Schepisi. Sicuramente il parallelismo è facile con il caso scozzese, però si ferma sul piano costituzionale. Nel caso scozzese, ad esempio, c'era un vero e proprio accordo, per cui se il referendum avessero prevalso i sì, effettivamente ci sarebbe stata una piena indipendenza della Scozia. Invece nel caso catalano la Corte Costituzionale ha detto che questo è impossibile perché non coerente e non inscritto nella Costituzione spagnola. Il dato importante è quello livello politico, perché Mas nelle ultime elezioni in Catalogna aveva vinto con la promessa appunto di fare questo referendum, l'ha fatto ed è un segnale importante da cui ovviamente bisognerà trarre le conseguenze dal punto di vista del governo invece di Madrid. C'è un dato di fatto sicuro che è l'aspetto economico e questo è l'elemento che differenzia l'indipendentismo catalano rispetto ad esempio a 10 anni fa. Fino a 10 anni fa essenzialmente le richieste di indipendenza della Catalogna si basavano su caratteristiche storiche e culturali. Adesso il ragionamento viene fatto su questioni strettamente economiche ed è evidente che la crisi economica ha influito. E passiamo al calcio adesso, abbiamo in studio Carlo Genta, come sempre in questi casi. Carlo, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno. Allora, abbiamo da commentare la giornata di campionato di ieri con annesso infortunio di Insigne e poi l'attesa per domenica e questo Balotelli che torna, sì, che torna in nazionale. I temi sono questi, sette bello, sette bellezze, sette baci. Oggi i titoli sono un po' uniformi per la Juventus, se ne fa una questione di modulo, io ne farei una questione di Tevez, che in Argentina hanno già ribattezzato Tevez Dona per il gol che ha fatto ieri, un po' troppo, ma un giocatore che certo non scopriamo adesso, che tornerà in nazionale, torna in nazionale anche Balotelli. Certi due giocatori sono in un momento diverso, credo Balotelli, zero gol in Premier League, il peggiore di tutta la sua carriera certamente, riceve come premio zuccherino questa convocazione, è di molto sorprendente a dire la verità di Conte, dopo un sacco di chiacchiere che sono state fatte sul suo conto. Quanto a tornando al campionato, la Roma in serata ha risposto alla Juventus, come fanno le grandi squadre. Dopo 27 minuti era già 2-0 con il Torino, ha aggredito Torino e partita e ansia, perché è chiaro che insomma non può lasciarsi scappare la Juve. Dunque 7-0 da una parte, 3-0 dall'altra, 10-0 contro le avversarie e si torna come si era prima di questa giornata con 3 punti della Juventus sulla Roma. C'è stata anche l'Inter, la solita partita molto strana in casa con il Verona, sotto di un gol, poi la rimonta, poi il gol subito alla fine, Mazzari si lamenta della pioggia, il pubblico dell'Inter si lamenta di Mazzari, ma anche questa non è una storia nuova, Simone. Ah, Insigne, Insigne. Sì, notizia di oggi. Poveretto, l'infortunio di Firenze è veramente grave, rottura del legamento crociato, 4-6 mesi di assenza, campionato finito. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. A Carrara dopo l'alluvione scatta un'altra emergenza, evacuati, piani terra, nuovi timori a Genova per le forti piogge che stanno investendo la città, prolungata l'allerta, scuole chiuse anche domani. L'Iraq conferma il ferimento del capo dell'ISIS, l'autoproclamato califfo al-Baghdadi, in Nigeria attacco suicida in un liceo, oltre 40 vittime. Ancora giù la produzione industriale in settembre, meno 0,9% su agosto, quasi un meno 3 su anno. Squinzi dice trend negativo, ma ottobre migliore. Dopo i fatti di Bologna, attenzione anche a Imola per l'arrivo del segretario leghista Salvini, che è in collegamento con noi. Matteo Salvini, buongiorno. Buongiorno e buon viaggio a chi è in macchina. Allora, che cosa è successo a Imola? Ma Imola assolutamente niente, per fortuna, non so che cosa abbia riportato. Abbiamo incontrato centinaia di persone, c'erano 5 contestatori che cantavano Bella Ciao e ci siamo messi a cantare Bella Ciao anche noi, quindi il massimo dello scontro è stato uno scontro canoro questa mattina, per fortuna. Ha cantato anche lei. Allora, l'abbiamo chiamata perché gli ascoltatori naturalmente la vicenda la conoscono, l'hanno vista su tutti i telegiornali, però riassumiamo: un tentativo di visita da parte sua ad un campo Rom, accolto da contestazioni di persone dei centri sociali, la vicenda finisce con insomma molta confusione, due ragazzi investiti senza particolari problemi, un vetro, il vetro della sua macchina, il parabrezza della sua macchina. Sia davanti che dietro, due vetri rotti della macchina. Oggi i giornali pubblicano un racconto, la versione della polizia, secondo la quale lei non avrebbe preavvertito sostanzialmente, perché sennò sarebbero stati in grado di garantire la sicurezza. Ma vi pare che in un paese civile io, per fare il mio dovere, io ero lì a verificare come vengono spesi dei soldi pubblici, anche degli ascoltatori leghisti di sinistra? Quel campo Rom di Via Erbosa a Milano da anni paga, è pagato dai contribuenti italiani, gli pagano la luce, gli pagano l'acqua, gli pagano la piazzola, non hanno i problemi della TASI, della TARI, dell'ENEL, gli paghiamo tutto per centinaia di migliaia di euro. E siccome ogni tanto la polizia va lì e trova refurtiva, io ho detto, ma scusate, vi sembra normale pagare tutto a gente che invece di dirvi grazie e poi si distingue per altri gesti? E io per fare una roba del genere devo essere soltato da 80 poliziotti? Perché sennò questi incappucciati vanno pure in televisione a dire e però se Salvini viene vabbè, da solo entriamo nel mondo reale, no? I rischi per la sicurezza da questo punto di vista c'erano. Lei ha avvertito la polizia dei suoi spostamenti oppure no? Ma ovviamente sì, ovviamente ho due figli, non è che ci goda a farmi distruggere la macchina e ad avere tre ossessi che come scimmie mi saltano sul cofano e sul tetto della macchina. Non so quanti ascoltatori abbiano mai avuto questa spiacevole esperienza, vi assicuro che star dentro una macchina che viene assaltata, pugna, calci, assassi, cinghiate, dove ti distruggono il vetro davanti, il vetro dietro, con due ragazze a bordo, non è il massimo della vita. Ovviamente la polizia sapeva dove eravamo. Quindi erano avvisati del suo percorso e anche degli orari, in sostanza? Sì, siamo arrivati in ritardo perché c'era traffico in autostrada, come il vostro infotraffico può dire. A proposito, io so qua, ma io non è che stia girando l'Emilia, la Romagna a prendere i voti per i rom. Qua il problema è la E45, il problema è che dalla Val Marecchia arrivare a Rimini ci metti un'ora e un quarto, e se ti rompi un braccio, se devi partorire, ci metti un'ora e un quarto andare in ospedale a partorire. Il problema qua è l'agricoltura che viene massacrata da Bruxelles, l'aeroporto di Rimini che è fallito, qua c'è il disastro dell'amministrazione di sinistra, l'ultimo dei miei problemi sono i rom adesso. Chi mi secca che gli paghiamo le bollette, questi come ringraziamento prendono a schiaffi i nostri consiglieri comunali, questo è seccante. Grazie Matteo Salvini, grazie a voi. Buona giornata, saluto Valerio Savio, vicepresidente dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua, allora, mi sembra di aver capito dalle cronache che arrivano dall'assemblea straordinaria vostra di ieri che insomma la linea nei confronti dell'esecutivo si sia un po' ammorbidita, o mi sbaglio io? Ma guardi, la nostra assemblea era un adempimento statutario convocato e che viene convocato a scadenza, in realtà neanche in base al calendario politico. E poi naturalmente è stata caricata di significati politici legati all'attualità. Noi, come sempre, siamo in finestra a vedere come gli esecutivi che si succedono affrontano i problemi della giustizia. A questo governo, come ai precedenti, abbiamo fornito in tante occasioni le nostre proposte e la nostra, come dire, protesta per un approccio che non è quello che servirebbe, ecco, un approccio che consideriamo insufficiente. Detto questo, ripeto, noi abbiamo fatto delle proposte, vediamo quello, giudichiamo quello che esce quotidianamente, poi le aggettivazioni le lasciamo all'opinione pubblica. Le aggettivazioni le lasciate all'opinione pubblica, mentre invece per parlare di sostantivi la parola sciopero è stata evocata, è un sostantivo che rimane in campo, per così dire. Allora, guardi, noi magistrati abbiamo scioperato 4 volte in 40 anni, mi pare, sempre solo quando erano in gioco riforme costituzionali o prerogative costituzionali della giurisdizione, quindi mai per vicende legate, per dire, al nostro stato giuridico, al nostro stipendio, alle nostre ferie, come si è discusso in questi tempi. L'assemblea di ieri ha detto una cosa molto chiara, che chi nell'associazione voleva uno sciopero solo sulle ferie o solo su questioni legate ad aspetti, diciamo, sindacali, è una minoranza. Noi abbiamo approvato ieri a grandissima maggioranza un documento che ha un approccio completamente diverso. Noi, ripeto, protestiamo per una assoluta insufficienza delle politiche governative sulla giustizia e diciamo questo, diciamo che siamo pronti anche, come sempre, ma non per cose legate alla, alla contingenza. Come sempre siamo pronti a, come dire, anche al limite allo sciopero, ma sempre solo quando dovesse essere in gioco l'autonomia, l'indipendenza della magistratura. Savio, mi lasci sciogliere questa affermazione in maniera giornalistica. Il punto è la questione della responsabilità civile, cioè se vi fosse una formulazione della responsabilità civile dei magistrati che voi ritenete punitiva, in quel caso sareste pronti allo sciopero. Certamente anche questo è una risoluzione che accettiamo, perché vi sono tanti modi di riformare la responsabilità civile e ve ne sono alcuni che certamente potrebbero degradare la qualità della nostra giurisdizione, attaccare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, rendere l'attività del giudicare, che è un'attività che deve essere intellettualmente libera, seppure naturalmente regolata, un'attività più difficile e che potrebbe rendere una giustizia più conformista e meno aderente a quelle che sono le esigenze di una giurisdizione moderna ed europea. Quindi noi anche qui siamo in attesa anche su questo, perché ripeto, ci sono riforme della responsabilità in Parlamento, sono stati approvati emendamenti in queste settimane che noi abbiamo rifiutato radicalmente, l'azione diretta contro il magistrato, in pendenza di processo, no? L'abolizione dello scudo sull'attività di interpretazione e di valutazione del Quindi, fatto. Quindi lei dice, quando avrete in mano qualcosa, a quel punto giudicherete e valuterete. Ripeto, noi se non altro per deformazione professionale non valutiamo rumors parlamentari o voci correnti nel pubblico, valutiamo i testi normativi da chiunque presentati. Grazie a Valerio Savio, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, e saluto Esterino Montino, buongiorno. Buongiorno. E bentornato ai nostri microfoni, sindaco di Fiumicino. L'abbiamo chiamata perché abbiamo saputo che, e abbiamo letto e sentito, che c'è stato uno sversamento in un fiume, in un rigagnolo, un torrente che scorre nel vostro territorio, uno sversamento di carburanti, e c'è un grosso problema ecologico in questo momento. Ci dà la dimensione di quello che sta succedendo e qual è lo stato adesso? Beh, lo stato adesso è che naturalmente questa condotta che porta cherosene per aerei da Civitavecchia fino all'aeroporto è chiusa naturalmente da diverso tempo, da giovedì. Giovedì sono stati fatti gli interventi tra giovedì e venerdì, gli interventi di sistemazione, però hanno sversato sui corsi d'acqua su due punti della riserva naturale nazionale, perché noi siamo in piena riserva naturale del litorale romano, due punti hanno sversato diverse tonnellate di gasolio. Non c'è una misura precisa, cioè non si sa esattamente quante ne sono state sversate? No, ancora non lo sappiamo. Io proprio per questo anche i contatti con l'ENI eccetera, che sta lavorando ovviamente, però ancora non sappiamo, e anche loro non sono nelle condizioni di dirci il quantitativo esatto. Domani c'è un'unità di crisi che alle 9 ho convocato proprio per fare il punto anche tecnico di tutte quante le vicende. Anche oggi la situazione era drammatica, perché ci sono quintali di pesci morti, anatre, folache, gallinelle d'acqua, nutrie e così via, che naturalmente mangiando pesci che hanno problemi appunto di sopravvivenza, a questo punto è chiaro che si è interrotta la catena alimentare con un danno ambientale molto forte. Allora, mi perdoni, questi corsi d'acqua naturalmente come tutti i corsi d'acqua arrivano in mare da qualche parte, è arrivata in mare anche, questi idrocarburi sono arrivati in mare? Ma guardi, pochissimi, perché l'abbiamo intercettati prima e abbiamo in qualche modo alcuni corsi, soprattutto quelli piccoli, l'abbiamo interrotti, e quindi abbiamo pescato, pompato un po' tutta quanta. Certo che se dovesse piovere molto eccetera, magari c'è il pericolo che tutto questo vada in mare. Poi da altre parti dove non era possibile interromperli invece abbiamo messo quei sistemi assorbenti dove molta di questa parte, anche quella l'abbiamo ripresa, e quindi abbiamo in qualche modo potuto recuperare tutta una serie di un liquido misto tra acqua e gasolio e acqua e cherosene. Quindi un lavoro in questi ultimi 3 giorni è stato fatto per attutire molto il colpo. Però certo una piccola quantità sicuramente mare, è arrivata sul mare. In mare è arrivata. Allora, grazie a Tesserino Montino, sindaco di Fiumicino, per essere stato con noi. Sicuramente su questa vicenda ci torneremo a maggior ragione domani, dopo che c'è l'unità di crisi. Cercheremo di capire effettivamente quali sono i numeri. Ci fermiamo, c'è la borsa e poi dopo la borsa ci ritroviamo. Stiamo appunto cercando di raggiungere il sindaco di Carrara per cercare di capire che cosa succede in città con queste nuove piogge. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. In marzo un aereo passeggeri della compagnia scandinava SAS ha rischiato la collisione in volo con un caccia russo sui cieli della Svezia, è quello che emerge da un rapporto dell'European Leadership Network. Ammonta oltre 2 milioni la cifra complessiva contestata nell'inchiesta sulle spese dei consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna dalla Procura di Bologna, che ha vagliato il periodo giugno 2010-dicembre 2011. A Carrara, dopo l'alluvione, scatta un'altra emergenza, evacuati piani terra, nuovi timori a Genova per le forti piogge. L'Iraq conferma il ferimento del capo dell'ISIS, l'autoproclamato califfo al-Baghdadi. In Nigeria, attacco suicida in un liceo, oltre 40 vittime. La borsa. Borse in diretta. Giornata marginalmente positiva a Milano, più 0,08% il FTSE MIB in questo momento, FTSE All Share in perfetto pareggio, lievemente meglio le altre piazze finanziarie europee. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Giornata deboluccia complessivamente, no? Sì, Piazza Affari è poco mossa fine mattinata dopo aver oscillato fra segno più e segno meno, a riprova di una incertezza di fondo che suggerisce di non prendere posizione a inizio mattina. Milano sembrava aver imboccato la strada rialzo, ma è poi stato un dato sulla produzione industriale a settembre in calo dello 0,9% e sotto le attese a riportare gli indici in pareggio. In pochi secondi, Isabella, titoli da segnalare? Sono deboli le banche, il risparmio gestito fra le banche, particolarmente deboli UbiBanca, meno 2%, Banco Popolare, meno 2,8%. Questo dicono i trader perché sono le banche migliori a livello di capitale, si pensa che possano intervenire in aiuto di qualche altro istituto, in riferimento soprattutto a UbiBanca, oggi oggetto di indiscrezioni relative al salvataggio Montepaschi. Per il resto vengono ripescati titoli con performance da inizio anno negative come Jux, Ferragamo, ma anche Mediaset e Saipem, che fa più 2,2%, mentre vengono venduti quelli con saldo positivo come Telecom Italia, che cede l'1,7%, molto giù Cattolica nel giorno in cui parte l'aumento di capitale da 500 milioni. Grazie Isabella, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E torniamo sui temi del maltempo e del dissesto, innanzitutto con una notizia appena arrivata. Viste le piogge intense sui bacini dei fiumi Taro, Parma e Baganza, la Protezione Civile Emiliana, Emiliano-Romagnola, ha attivato la fase di preallarme per piena per una serie di comuni del Parmense, perché prevede significativi innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua dal tardo pomeriggio. Io saluto intanto Angelo Zubani, sindaco di Carrara, siamo in Toscana, dunque bentornato ai nostri microfoni, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, com'è la situazione innanzitutto, perché ho visto che ha fatto evacuare i piani terra a partire da mezzogiorno? Nulla di buono per il pomeriggio e la notte. Già la notte passata ci aveva creato preoccupazioni, comunque non ci sono stati problemi particolari, però le ore che verranno sono ancora più difficili. Prevista una situazione meteo tra la Lunigiana e la nostra zona, e quindi le preoccupazioni di quell'argine lesionato mercoledì scorso preoccupano soprattutto sulla parte di connessione tra la parte crollata e quella rimasta in piedi. Senta sindaco, quando è stato ospite da noi, tra l'altro lei ci aveva raccontato che là i lavori erano stati fatti nel 2003 e poi l'argine però è crollato, no? Sono st- stati terminati nel 2010, con la data, sì. Insomma, comunque terminati. Vabbè, insomma, nel 2010. Fatti dopo l'alluvione del dopo l'alluvione del 2003. Ma chilometri di ma lei è riuscito a capire, lei è riuscito a capire che cosa è successo là, perché con capisce ma che guardi, io dal nostro punto di vista mi sono occupato dell'emergenza dei miei cittadini al di là delle turbulenze eccetera, e sto continuando a farlo ovviamente. Io le parole del presidente della provincia, che una conferenza di giovedì, mi sembrano abbastanza eloquenti, e lui dai progetti, dalle relazioni dei suoi tecnici, da quello che ha trovato agli atti, insomma, ha parlato di un appalto eseguito in maniera inquietante. In maniera quindi, inquietante addirittura. Sì, quindi diciamo adesso sono al lavoro per questa sommergenza i tecnici, i supporti professionali credo sicuramente all'altezza della situazione, però è una lotta contro il tempo, quindi da un lato si sta provvedendo ancora ai lavori di potenziamento di sommergenza, dall'altro si sta già procedendo per un progetto di messa in sicurezza finalmente definitivo, quindi con l'uso anche di materiali e di tecnologie che non erano state fatte in precedenza. Sono state giornate dure, Sindaco, anche per le proteste dei suoi cittadini nei suoi confronti. Ma guardi, io penso che ogni sentimento anche di rabbia e di dolore abbia dignità. Non hanno dignità coloro che vengono con i cappi e con le forche, ma tutto il resto, voglio dire, ha dignità e merita rispetto. Io quindi però sento la coscienza a posto, sento che il mio ruolo mi impone di stare a bordo e di non fuggire, cosa che sarebbe probabilmente anche più semplice in questo momento, però io ho tanta forza, tanta serenità, il tempo come sempre sarà galantuomo anche poi per capire le vere responsabilità. Quindi non ha pensato alle dimissioni, eventualmente è passata la fase d'emergenza. Io ho già detto e chiarisco, me ne date l'opportunità, che noi non abbiamo responsabilità dirette e continuerò a ripeterlo all'infinito, perché in tutti gli 8.000 comuni italiani quei corsi sono seguiti, le competenze sono delle province italiane, non dei comuni. Dopodiché io porto il peso invece delle responsabilità che ci sono dopo quell'evento. E quindi tutto quello che sta succedendo mi crea un'angoscia, un peso enorme, ma nonostante questo io intendo andare avanti, fare le riunioni con quelle di stamattina, sentire il prefetto Gabrielli che ho contattato telefonicamente per capire la giustezza delle mie misure. E quindi poi ci sarà il tempo a breve delle riflessioni, finita questa fase, e anche assicurati i risarcimenti che questa volta ci devono essere, a burocrazia zero, non finanziamenti che poi non si riscuotono mai dopo anni perché mancano le fatture, gli scontrini, DUR che vi andare. Però poi ci sarà la fase, dicevo, politica, della riflessione, dell'analisi, a cui non mi sottrarrò, ma in questo momento io non ci penso, non ci ho mai pensato di abbandonare il campo. Io vorrei sapere chi avrebbe presieduto la riunione di stamattina, se io me ne fossi andato, oppure quella che ci sarà nel pomeriggio e domani. Quindi ora è tempo di emergenza, con tutto il rispetto per chi sta ancora in municipio, tra l'altro stamattina un emittente, non voi, ha detto che il sindaco non era in municipio chissà per quali motivi, io sono giorni che sto nel posto giusto, all'unità di crisi presso Carrara Fiere con protezione civile regionale, provinciale, comunale, forze dell'ordine. Quindi io sto dove c'è bisogno, dopodiché vedremo il da farsi. Grazie Angelo Zubani, sindaco di Carrara, buona giornata e buon lavoro. Chiudiamo parlando di musica prima del traffico, perché sarà Milano ad ospitare gli MTV European Music Award 2015, l'annuncio ieri a Glasgow al termine dell'edizione 2014, che un annuncio che dà il via libera ufficiale alla collaborazione tra il network Viacom e l'Expo in programma dal 1 maggio al 31 ottobre nella città lombarda. Ondata di premi intanto per gli One Direction, mentre il premio per la miglior canzone è andato a questo. Si tratta di Problem di Ariana Grande, che come intuirete dal cognome, tra l'altro, ha un'origine italiana. Ha già venduto centinaia di migliaia di copie e conta circa 300 milioni di visualizzazioni su YouTube. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Del momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero.